Capitolo 4. La Resistenza. Montagnana, autunno 1242. Il momento giusto non arrivò in autunno, non arrivò nemmeno in inverno, quando la nebbia scendeva sulla pianura come un sudario e i soldati di Ezzelino si stringevano attorno ai fuochi del presidio. Ma in quei mesi di attesa, qualcosa cresceva sotto la superficie di Montagnana, come radici sotto la neve, silenziosa, ostinata, invisibile. Il gruppo di Fante il calzolaio si era allargato con cautela, un uomo alla volta, scelti con la lentezza e la cura con cui si sceglie il ferro per una lama importante. C'era Simone il mugnaio, un uomo enorme con le mani bianche di farina e una memoria prodigiosa che ricordava ogni movimento delle truppe. C'era la vedova Agnese, che nessuno avrebbe sospettato, perché portava ogni giorno il pane caldo al presidio e sorrideva ai soldati con la devozione di una madre, raccogliendo nel frattempo informazioni che valevano oro. C'era il giovane prete Don Ilario, che usava il confessionale come luogo di raccolta notizie, con una disinvoltura che avrebbe scandalizzato il vescovo. Una sera di fine estate, Bertone chiamò Milo in disparte. «Ho ricevuto notizie», disse il vecchio sottovoce. «Da Padova. Ci sono uomini che si organizzano. I Guelfi non hanno dimenticato. E il Marchese d'Este non ha dimenticato Montagnana». «Vengono?» chiese Milo, sentendo qualcosa accendersi nel petto. «Non ancora. Ma vogliono sapere se dentro le mura ci sono ancora uomini capaci di combattere». Si guardarono in silenzio per un momento. «E noi cosa rispondiamo?» chiese Milo. Bertone sorrise per la prima volta da mesi. Era un sorriso storto, consumato, ma autentico. Rispondiamo di sì. Nei mesi che seguirono, Milo divenne il punto di collegamento tra il gruppo di Fante e il mondo esterno, il filo sottile che teneva insieme la rete di resistenza che si stava tessendo nell'ombra. Commise anche errori. Il peggiore accadde in una mattina di ottobre, quando fu fermato da una pattuglia di soldati tedeschi al mercato. Aveva con sé un messaggio nascosto nella fodera del mantello. Uno dei soldati lo guardò con quella particolare attenzione che i soldati esperti riservano alle cose che non tornano. «Dove vai, ragazzo?» «Al mercato, messere. Per mio padre, il fabbro. Ha bisogno di carbone». La voce uscì ferma. Milo ne fu quasi sorpreso. Il soldato lo fissò ancora qualche secondo, poi scosse la testa e fece cenno agli altri di proseguire. Milo camminò fino al banco del carbonaio con un passo regolare, comprò il carbone che non serviva a nessuno e tornò verso casa senza correre. Solo quando fu nel vicolo dietro la bottega di suo padre, si fermò contro il muro, chiuse gli occhi e lasciò che le mani tremassero quanto volevano. Poi le aprì. Le guardò e aspettò che smettessero di tremare. Quella notte, tornando a casa, incontrò suo padre sveglio, accanto al fuoco quasi spento. Corrado teneva in mano un piccolo scudo di ferro, il simbolo di Montagnana, che aveva forgiato anni prima per un armigero della città. Lo aveva tenuto nascosto per tutto quel tempo. «Padre», disse Milo sottovoce. Corrado alzò gli occhi. Non disse niente. Tese semplicemente la mano e offrì al figlio il piccolo scudo di ferro. Milo lo prese. Lo strinse nel pugno fino a sentire i bordi incidersi nel palmo. Non aveva bisogno di parole. Alcune cose tra padre e figlio viaggiano senza il suono delle sillabe, lungo strade più antiche del linguaggio. Il momento giusto non era ancora arrivato, ma Montagnana non aveva dimenticato chi era. E Milo portava adesso nel pugno chiuso il peso leggero di uno scudo di ferro e il peso infinitamente più grande di una città che aspettava.